tutti, ciao ciao ancora, buonanotte. Sardegna, avanti ancora a Toni, quadrato della Sardegna. Non è più, non lo sento più. Sì, sì, c'è ancora, c'è ancora. Ma io vi dico che parlano bene, si cercano secondo capire l'italiano, quindi non c'è bisogno di fare molto ciabotto. Basta che tu che parli l'italiano, lui ti capisce perfettamente. Perché i serbi e i croati capiscono molto bene l'italiano. Ok, quindi ti saluto, un abbraccio, grazie per aver chiamato qua sul canale 10. Ci sentiamo le prossime, qua ripeto, trasmettiamo in locale, quindi abbiamo più o meno una cerchia di 5-6 persone che trasmettono qua in locale, ok? Gatta gatta, d'accordissimo, d'accordissimo, siamo qua e quando vuoi, se si allunga un po' la propagazione, chiama pure che se ti ascoltiamo ti rispondiamo sicuramente. Ciao Tony, a presto, ciao, bye bye, vai Franco. Ciao Tony, ciao, rapporto segnale per te 75. Tony, 75 alla tua zona, Ok, Tony, 59 per me. Ok, grazie. 7351 ancora, dai. Vai, ascolta le prossime, Tony. Ciao, ciao, riprendi Claudio. Aspetta, devo attaccare il piede. Un attimino che prendo con l'altra radio. 759. Dove stavo volando? Jugoslavia, in Bari. In Serbia, Serbia. 59, 72, qua, allucinante. Non lo so, aspetta. Questa è di propagazione? Questa è l'antenna, questa è l'antenna, di zona. Vedi a me va la cabrata sola, vedrai che ti faccio schiattare. Quando vuoi ridere, ti faccio poco bello. Io facciamo le scene in campagna tutti i giorni. Ma a me da dove quando mi dava carbonato mi ha segnato, che facciamo lì? Già lo so. Già ci siamo in campagna, si sono fatto le giornate calde. Anche mettendo in campagna, troac, bistecche, vino, birra e divertimento. Conosce il campagna, lascio anche io. A provare qualche cosa. Troppo alto, come la comunicazione, poi? Troppo alta la radio? No, no, già va bene. Ma sto trappando? Con le di me. Abbiamo fatto solo una volta, non è che non si è inventato. Ma io quella roba lì non l'ho toccata, capito? Perché come ho toccato, l'ho toccata. Solo basta girare la LC, quel PQR che c'è lì e ce l'hai più. Appunto, e quello sto dicendo che è normale, secondo me è normale. Anche se a me sono più distanto. Secondo me è normale, non è. Non può farsi più distanto. A parte che probabilmente mi sono confessato si crepi il modulatore subito. Quindi devi per forza modificarlo, perché non c'è altro metodo. Non lo tocco io, no, lo faccio stare così, questo è il suo microfono e va bene così. Gianni. Ma come vuoi, caro, dove ti dica? Ti lamenterai quando schietterai il modulatore? Ah, sono gallissimo. E se fa me, sì, cosa vuoi dire? Ma se lo dice, quando lui... Gianni. Ma come si crede sulle cose, Fabio, era un consiglio. Ma è successo qualche cosa allo smister, perché qua in una politica massimo 2 non vedi 10, anche se di momento rimane stata 9-10, gli altri sapevano quasi a zero. E cosa è successo? Non lo so, che cosa succede? Qualche cosa è toccato. Niente, niente, ma che non ho messo a andare con l'apparecchio, è successo qualche cosa. Io ho detto che ti prova. 1, 2, 3, prova, Roberto Padà. No, no, tu sei sempre uguale. Adesso con l'RF gain è tutto aperto, tu sei 9-10, se chiudo rimani quasi a 9-10, cioè se lo apro tutto quanto non cambia niente. Già, Gianni non c'è, andava, Natale, ha fatto un giretto? Dopo una settimana di lavoro a trovare qualche amico. Gappa, andave, andave. Ma Gianni non c'è fra? 1.50 ciao. Ah? 1.5 cambio. Ah, quindi c'è. Andare, dai, cava cava. Io ho fatto da fare una prova, io ho suonato la macchina. Tu? Cazzo è! Ciao! Allora. Allora, vieni. Va di ricco. Ma come l'altro già non quello, Antone? Ma che l'altro, l'ho fatto. Venduto? Dopo quello ho fatto per te. No, ho venduto. Lo sai che non si vende la volta? Di fretta. D'accordo. D'accordo. Scusa poco, la te trova a caporazzi, quindi bisogna pompare. Sì, fa poco quando? Poco. E torni al tuo QTH vecchio? Al mio QTH vecchio, sì. Ma ce l'hai là la leggenda sempre? Ma le volte sono qua, ma poi stavo di là. Gappa, andare. Andare. Franco, ti è spostato. Non so qua prendere un cagione di sbattere. Adesso attaccare il Mobicom mi viene un po' male. Ti ha regalato una moto stasera. Un'altra. Papà. E che moto è? Garilli. Lo scuba, nuovo. E va. Sì. E cammina? Papà. Ah, lo stai usando? No, sono in campagna, ho preso in campagna stasera. Ora sono qua nel livello 4. Visto come si fanno? Quando piace le parabole, fai un favore, i favori fanno i regali. Così la volta sono morto, mi hanno regalato due. Gappa, mandare. Vediamo un po' se sente Daniele. Amate Daniele? Chiaro, sì. Franco si è spostato. Splatter, non mi sento più. Io non posso più stare qua, non posso più, adesso ti metto fuoco alla casa. Ma quella volta ti ho regalato un po', cioè un orologio. Franco. Fatto lei. Claudio, come tu vuoi dire che era quasi. Mi intende? A che col dipolo, Claudio o Roberto? Claudio era con la telapicolina. Praticamente così, Anto, che gli arriva 9-10 normale e 9-10 a referire in chiuso. Claudio e Roberto. Infatti. Vai di giù. Vabbè, io l'ho visto, è nuovo, è fiammante, solo che non gli avrei spesi 100 rottino per un apparecchio. Perché ti si ammoscia? Ma pensavo di inculate. Noi, spaghetti e crocroi. Ma se Antonio, ce la fai insomma a te di a fare quella cosa, che stasera ho trovato al capocondone, mi ha detto, dite che venga a me a fare prima di martedì. Io pensate se, io pensate se sotto mi serve, io farò un basamento per attaccarlo in quel cazzo di ferro e basta, non mi fare altro, la pensate se è tutto intero, solo la base serve. Oh, boh, forse c'è qualche cosa, forse il tubo di plastica, lo allarghi, ah, mi sta sellando, l'ho visto stasera, guarda, per sbaglio, mamma mia, lo so, chi eri tu? Vedi tu se può fare qualcosa, che mi ha sentito. E ho detto, ma tu che la fai? Ho detto, beh, quel signore, sono amico mio, ho detto, gli dico l'uomo stasera. Qua se tu vuoi andare a peggiare, mi metti con un altro a peggiare, fa quello che vuoi, guarda, mettili in questo tiro di 5 minuti. Basta che sia dritto quel cazzo di cose. E la sua casa di mamma intanto, quindi non c'è problema, non morì, non mi sarò più. Vediamo un po' se c'è ancora Daniele. Daniele, ci sei ancora? Antonio. Aspetta un attimo. Già, Daniele. Non si è risposto, non lo sento più io. Ma Gis Blatter, tutto è andato. Vai già. Ciao, Antonio. Per scrupolo, perché non devo vendere domani, l'ho provato tutto. ma sono accorto, capito, se no io vado a andare, non sta buttando perché non c'è mai nessuno. Già, tu devi preoccuparlo da prima, lo sai com'è. Purtroppo è un baracchino che ha tutte le sue funzionalità e devi provarle tutte, tutto quello che ha devi provare. Tu non le hai provate già, lui mica, lui lo sapeva che se andava non andava. Ha venuto per buono, poi io l'ho visto quel baracchino, è fiammante. Oh, non lo sto difendendo, io ti sto dicendo la mia, poi fai tu. Non sto dicendo niente, vabbè, e tu ti fai girare, non c'è problema. Ehi, a far girare tu che mi vado a zeri, rimango nell'ascolto. Che mi va, tanto di questa. Grazie, bruio, no, non lo so, grazie. Sono tutti i nemici, stavano le pizze, la palazza dove mi ha preso Roberto qua, adesso stavano un po' qua. Ehi, è fraco, mi fa le scia. Il corpo dice che la ricezione si è abbassata di colpo. Vuol dire che riceve la Roberta e la riceve 9:10. Antonio! Comunque Antonio, questo comitato ha già problemi di... No, non cambio il canale, no, ma non è centrato bene il 10, sembra tutta la fan Napoli. Ah, in caso che dimmi, dove c'è il chiamare un capo in bar? Ah no. Se cambia l'antenna. Hai capito? È finito. Hai capito come fa? È finito. Non arrivo. A proposito, praticamente con il microfono attacco della guida. No, profili, niente. Io a provarlo, capito? Se non mi cade, mettere uno a tavolo. Adesso vediamo, là, vediamo. Tanto dicono là, come mi ha tolto sulla di un dono. Mi ha provato uno a tavolo a vedere come spara, capito? Io non vado a andare bene, ma se qua mi trovo. Attento, ma come li vuole, no? punti esce e voi non rilevate questa differenza, cioè da 2 watt e mezzo a 8 watt e mezzo non rilevate la differenza, vabbè, cosa volete vi dica? Io la rilevo la differenza, per me lui col pesce esce molto più forte di quanto esca col Midland. Roberto, un passaggio. 1, 2, 3, 4, 50, 100, 1000, 200. Aspetta, prova adesso. 1, 2, 3, 4, 50, 100, 1000, 200. È 9,25, aspetta, perché qua si è modificato per l'attenuatore. Mamma mia, gatto, mamma mia. E va bene, anche lo sai. Guarda, ma siccome già lo so, lui sta sempre inserendo tatti, togliendo tatti. Cazzo, ma che dici, li rigetti, li rimuovo, che ci tatti. E te lo lavo tutto senza tatti, che c'ha radio. Mi possono fare prove, cazzo, un apparecchiatore di centinaia di euro, atto senza baita, cosa ci muovendi? Non riesco a capirlo, cazzo. C'è l'attenuatore, non ce l'ho fatto caso. Invece di schiacciare quello là, ho toccato l'attenuatore, vabbè. Comunque ce l'ha dato Giovanni, è giusto adesso, per questo. Ah, lo stesso segnale, quindi, tra una radio e l'altra, anche da te. 9,25, qua adesso è senza attenuatore, 9,25. La radio è un bel potente, comunque, Questo lo sapevamo, che la radio che sta usando lui col Midland è superiore al Apache, questo glielo ho già detto, è più forte, più amplificata, ma quello non ce ne frega niente, abbiamo già deciso così, a me mi interessava sapere se c'è la differenza tra una radio e l'altra con la stessa antenna, da te differenza non ce n'è, da Antonio differenza non ce n'è, qua la differenza c'è, io la rilevo con l'attenuatore di 10 dB di 10 dB, che poi lo faccio anche a 5, quindi a passi di 5, di 10 dB con 9,40, io rilevo una differenza da 9,48 a 9,60 e siamo a 200 metri, quindi evidentemente le vostre antenne e le vostre radio non hanno questa sensibilità come può avere 940. Vabbè, Robè, lì allora dobbiamo, domani mattina faccio, sentiamo un pochino, adesso chiamo Luca Flipper, le dico di mandarmi un'email con tutti i dati di questo signore bello e poi tu vedrai che cosa le fa zio Claudio a lui. Claudio, dimmi. Ma sai cosa posso fare adesso, sempre che non si prenda lo strumento? Attaccare il Midland e mandare con l'altra antenna, piccolina, e mandarlo a vedere come sta cercando lo Smith. Registrato. Io non ho problemi, io ti posso attaccare nuovamente l'altra radio, il 440, lasci il rettilineo tutto aperto, te lo chiudo 4 golpi, vedi che se è bloccato si sblocca di nuovo, non è quello il problema. Avanti, break. Io, Robè, attacca l'altro apparecchio e fammi un passaggio. Allora, adesso ti faccio il passaggio col base, 1, 2, 3, prova, 40, 50, 100, 1000, adesso passa l'altro apparecchio, dammi un paio di secondi, scusa. Fermi due per ogni passaggio, ne fai due con pesce e due con normale, che devo fare una cosa. 1, 2, 3, prova, sto parlando col pesce, 1, 2, 3, prova, 50, 100, 200, ti va bene così? Hai notato di notte differenza del mio segnale, sì? Mentre io nel tuo non noto nessuna differenza perché tu stai usando la stessa radio, nonostante io abbia lo smitter più piccolo, però abbastanza affidabile perché è tarato molto bene, il tuo segnale è sempre 9,30, anzi 9,28, perché era 9,25 quando avevi l'antenna bassa, l'hai sollevata e 9,28, e 9,28 sì con questo. E tranquillo, senza nessun problema. l'attenuatore, un attenuatore da 4 lire, capito? Perché c'è scritto attenuatore, se si agge il pulsante e come regola si abbassa di 20, ed è giusto perché si abbassa di 20 dB, da 9,40 va a 9,20, ok? Siccome quello 9,40 è regolabile da 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30, cioè passi di 5, quindi molto più affidabile, io ho provato a passi di 5 e a passi da 10, e la differenza si nota, perché l'attenuatore è molto, molto più sincero e sensibile, capito? Cosa che magari voi non potete fare, però la differenza qua si nota, e si nota anche tanta, perché da 9,48 con un apparecchio che dà 3 watt a 8 watt, che sono modulati perché l'ho provato io con la radio, ci sono c'è un bel differenza. A me la cosa che mi sembra strana è il fatto che in lontananza lo scuoto di prendere il segnale e lo scuoto in vicinanza, dovrebbe essere il contrario. Non lo so questo, io rispondo per le mie apparecchiature, poi di quelle degli altri non lo so, stai innescando malamente, non sto capendo niente di quello che stai dicendo. Io rispondo per le mie apparecchiature, io in vicinanza a lui rilevo, nonostante perché attenuo, quindi attenuando posso anche allontanare il suo segnale, pertanto attenuandolo con 940, con 940 io rilevo questa differenza, perciò la radio da 2 watt e mezzo a 8 watt la differenza c'è, perché c'è, se la rilevo io c'è, poi ripeto, se voi non la rilevate evidentemente è questione di apparecchiature, io la rilevo, perciò la radio non c'è niente, vabbè, tranquillo, la potenza c'è e non ci sono problemi, l'unica cosa da vedere è se attacco il 440, tiro due colpi a 150 watt, vediamo se si sblocca, lascia le freghine tutto aperto, o si sblocca fa il doppio giro. L'ho detto io, dal mio strumento. Esatto, 3 watt modulati. Esatto. Il mio strumento, non quello della prima, è quello della Vectronic, capito? Poi l'ho misurato addirittura anche a carico fittizio. E i watt sono quelli, non cambia niente. Ma infatti, quindi non cambia niente, perciò. Gli strumenti che ho io sono strumenti che io ho sempre usato e sono molto molto affidabili, perché se questa radio mi sta dando 6 watt modulati, cosa che dovrebbe dare 10, mi sta dando 6 watt, vuol dire che deve dare 6 watt, non credo che tra uno strumento e l'altro cambio. Ma vabbè, mi hai fatto la domanda e io ti ho risposto, perché sembra che quando facciamo una cosa non siamo capaci di farla. Io l'ho fatta abbastanza tranquilla, abbastanza senza nessun problema e senza nessun peccato. La radio di Roberto dà 8 watt e li dà perché li dà, mentre il mio dà 3 watt modulati, perciò da 3 a 8 sono 5 watt di differenza, la differenza c'è, è come se c'è. No, Roberto Quadrato non ha fatto niente, ho fatto tutto io, la radio l'ho portata quando io ero convinto che tutto andasse bene. Siccome adesso si è rilevato un problema di segnale in ricezione, quindi non so che cosa sia successo. Non so se è successo a causa mia, perché lui mi sente talmente forte che deve chiudere tutte le freghine e quindi provarci sia quello, non lo so. Oppure non lo so, devo vedere che cosa c'è. Adesso Claudio. Dimmi. Adesso sono col Bates. Sì, 9 più 60. Vabbè, scusa un attimino, schiaccia portante poi modula, un attimino, andiamo a fare una cosa. 1, 2, 3, prova Roberto Quadrato, 10, 20, 30, 40, 50. Fischia, Robè, fischia. Robè, fischia. E adesso sta fischiando? Sai fischiare, fischia. Ah, fischiare io. A sopra il dB, quindi se è uguale la misurazione, ecco, è uguale sì la misurazione, non cambia niente. Praticamente è successo che lo smitter io gli arrivavo a fondo scala, adesso sta segnando 9,10, quelli che gli arrivavano 9,30 gli arrivano 9, non lo so. Ecco, la sicura che sono arrivato a fondo scala, è arrivato un po' che ha spostato un po' la bobina, oppure si sia spostato di paratura. Ma infatti quello che sto pensando anche io, che sia causa mia che abbia fatto troppa, che abbia preso il colpo e si sia praticamente bruciato qualcosa. Vabbè, no, me lo porto qua e vedo col tester che cosa è successo. No Claudio, ma non l'ho mai fatto andare a fondo scala piena, mi dai che lo chiudevo, quando c'eri tu eri troppo forte lo abbassavo. Sempre, non ti sei mai dimenticato? In linea di massima sì, non c'ho la certezza assoluta, ma ho fatto in modo che non arrivasse mai ai picchi massimi. Arriva poco meno di 9, e segnale loro che era 9.30, 9.20 fino a qui si arriva a 2, 3. Ma Claudio, da 9.10 si arriva a 9. Da 9.10 a 9, ma che senso? Sono che si arriva a 9.10, se volete finire a presto. No, ma è quella, prima mi arrivava la foto scala. Mare è stato tanto tempo fermo e scusi, le bottiglie degli strumentini sono un pochettino così. Mare ha bisogno di funzionare un po'. Ma stava funzionando perfettamente, forse perché ha scaldato, è acceso circa 4 ore questo apparecchio, non vuol dire che mai avesse scaldato, che magari si sia calato, non lo so. È possibile, perché allora è possibile anche che ci sia un trigger delle regolazioni, che i trigger sono all'interno dell'apparecchio, che siano filati, quindi praticamente come scaldano, quello è un resistivo. Ma tante cose, tutti sempre per considerare sia l'apparecchio sia i trigger, punto e basta, lì che poi incaccato, migliore qui e là, però la salute che ha i suoi anni e chiaramente come tutte le cose che hanno la realtà vanno per lui. Gappa, ma poco fa passando le retrighenne riuscivate a entrare lo stesso, qua vi siete attenuati anche di segnale, credo almeno. Sì, ma quello è un po' che invece di uscire con 10 infatti stiamo uscendo con 3 VAC. Vabbè, quello non lo so io, bro. Devi controllare anche quel fatto lì. Però il fatto che ti arrivi a te per esempio 9.15, io da te 9.15 devo arrivare con un RFG normale. Che mi sa? Prova, ecco cosa prova, a parlare? Mi lascio a te sui colpisci, per controllare il segnale. Ma controllare il segnale tu a me? No, controlla tu il mio, quanto è? Così con 440, quant'è? Un po' che tira di più di prima. Mettere il seghetto al massimo. È sempre al massimo, prima eri quasi 9.10, adesso si è appena detto di 9.10. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va allora. Cambiatevi tutti i trimmer. Bisogna di cambiare tutti i trimmer. No, no. Ci sono i trimmer di regolazione lento, ci sono il valore e li cambi tutti. Tutti. No, no. Comunque adesso siete a quello, prima passavi a 9, adesso rimane quasi a 9.10. La potenza qua è triplicata, quindi adesso sono con quasi 50 watt, prima ho controllato il vatto gol. 3.8.24, 5.8.40. Una cosa strana, quando c'era poco fa le QRM, come si chiama, gli studi, arrivavano, non avevano tutto aperto le RFG, erano a 9, adesso sono molto di meno. Una 1. tutto, se noi eliminiamo tutta quella parte lì e vediamo se si comporta nella stessa maniera. Problemi, spero non averne, prima che il curatore sia arrivato. noi, al limite usi di noi con quel microfono di tavolo che sono uguale con il fiume. Va bene, cappa, cappa. Ma se non mi sono portato anche il S2000 con il 75. la visita, non ti neanche un calmante io. Ma ieri sera dice, mi ha detto poi che sei passato dove vado io, ieri. Allora mi sei passato la circola. L'apparecchio non è attenuato, l'apparecchio non ha bisogno di un attore perché riceve basso. da filtri, quindi se c'è quel QRM vicino, se c'è quel QRM è consistente, capito che problema. Se vado a Santiago Onofre io con la Trafalca, come fa a non prendermi adesso per Marisano? Con la Trafalca è un conto, ma adesso sei con un bidet, e quindi è logico, scusa, non ho capito cosa vuoi attendere. Questa cosa se io esco con la mantola e poi metto la magnetica, non so se mi senti. Sì, ma a te non mi sembra normale, con quell'altro baracchino non sentivo. Sì, ma adesso si saltellami, è con la specie di cosa, di multibanda che c'ha, scusami, è un Mario. Sì, ma prima lo ascoltavo io, più piccolo ma lo ascoltavo. Cosa vuoi che dica io? Non lo so. Prova a staccare quella attacchi d'alto, se lo senti, mi scusi, se lo senti proprio mi sono al limite. Io addirittura quando sono 61 mi ha diminuito lui, io addirittura non sono con Kenzo, sono con un tornato 4S mio, o Mario, lo sento basso a lui, Mario. Non mi violenta la signora, però come ammazzano questi lady domani mattina. Okay, Dio ti voglia. Che bello che sei. Thank you. sto facendo un correttivo, magari noi che ci sentiamo per ascoltare a casa, c'è 10 minuti. Corretti per me, ciao Claudio, dai, Maurizio e Roberto e tanti altri, ciao. Ciao, ciao, Giovanni. Quindi c'è proprio di lui con quella multibanda. fino a rimane a sera mi ascoltava 9 buoni, con l'altra radio, con la massa va 9.15 mi sembra, a parte di quel pure mi ascolta più. Ascolto io, senza la voce, Roberto, mi sento io. Ma ascolto io, cazzo, scusando la frase, 9.5, la realtà si trova. Roberto qua arriva 9.5 col suo portatile, ecco se lo riesco a capire. da Mario non gli arrivava con l'apparecchio tuo, invece Mario mettendo la sua apparecchio arrivava benissimo, e la cosa, scordamelo tu adesso il tuo problema con te, Antonè. Ma spiega un perché Roberto ha guardato ieri, arrivava a casa mia quando stavo usando il telefono mio, sia con la terza che con l'altra, con tutti e due. Spiegamelo tu, scusami, cosa ho fatto stamattina? Mi sono stato presto, ho fatto il coglione e mi sono gli ho staccato la massa e gli ho messo solo il positivo in quella palette. Se gli ho passato, scusami, che cos'è? Io non lo so, a parte Mario c'era Mantova, non c'era una scena che c'ho io. E con lo te. Spiegamelo tu. La palette è quello che è. Il che uno, il 80, non ho fatto niente. Io ho solamente prestato e basta. Perché da casa mia a casa sua c'è quella differenza? Quando li sentivo tutti e due da una parte all'altra, a parte io Roberto Quadrato con quella multibanda, con l'apparecchio di Giovanni Mistero, quasi non lo sento. Perché? Spiegalo tu. E invece con l'altro lo sentivo, con che uno? Intec, come mai? Cioè, qua c'è un problema. così, l'avete incasinato, ma va bene, sempre con quell'apparecchio lì. È logico che quando ci sono i pulsanti, lui stamattina quando è venuto a pigliare l'apparecchio a casa, mi ha detto, ancora dice, sistema loro così, e così va bene, e così ho fatto. Invece quando si è aperto il tutto, tac, dopo un po', vado qua, sta stappando, vuol dire, l'avete incasinato. È logico la questione, perché se io vado a casa di madre domani sera, ti faccio vedere che la cosa qua non lo sento, e ti faccio vedere che la questione è il contrario. Sua madre non si ricorda più come quell'apparecchio lì funziona, perché da un po' di tempo che non lo usa. E lui dico, scusa, non ho capito, fatti toccare quello, quello con l'altro si è incasinato. A parte che poco fa diceva, perché è vero, a posto di toccare le RS amplificatore, ha toccato il processore. Devi anche capire che tu, Claudio, tu sei l'apparecchio che tu usi quell'apparecchio lì. E invece, quando metti invece nel coso suo, tu per esempio usi un FT250, tu vuoi vedere come lo regoli, perché non si fa regolarsi, se si va bene il tempo. Scusami, lui, Mario, non l'ha fatto per male, Mario è la verità perché non usa quell'apparecchio lì. Qui dovete avere almeno un coso, guarda Mario, devi fare così, piano piano, così, invece no, va. Siccome io l'apparecchio ce l'avevo fino avanti, non posso dire sbugiato, perché io parlavo con quell'apparecchio lì e allora ho guardato, sentivo sia con una terra sia con l'altra. Hai capito? Perché se con questo apparecchio qua, con questo non sta quattro canali, io sento quasi sente uno all'aperto quadrato, con quella specie di antenna che c'ha. Invece con l'apparecchio grande, col che, non sentivo tranquillamente bene. Ciao, ma è vero. Quindi, evidentemente Mario, senza accorgersi di quello che ha fatto, ho toccato dei pulsanti che dovevo toccare. A forza di premi questo, premi quell'altro, Mario non si ricorda più, nel bel tempo che non lo pulsante non l'ha colpa, scusami, Ecla. Non è che si sente intelligente oppure no. Il problema è questo, che non sempre, è un bel tempo che non lo usa con l'apparecchio. Scusami. Comunque, chiudiamo il discorso, a me non mi interessa quello che tu hai fatto sulla tua della cura sapere questo perché non è mio problema, io sono qua con la domanda. La domanda, la risposta me l'ho già data, capito? Poi, ti ripeto, ognuno della sua roba è libero di farne ciò che vuole. Io dico che l'attenuatore deve funzionare, se il segnale è 9 più 30 deve attenuare di 20 dB, perché l'attenuatore del 180, del 140 e del 440 hanno 20 dB di attenuazione, quindi da 9 più 30 io devo andare a 9 più 10, e non si discute, e non c'è dubbio, perché né tu e né nessuno mi può contraddire, ok? Il classificatore è 20 dB più, quindi da 9 più 30 devo andare a 9 più 50 e non si discute, perciò sei tu che cosa hai fatto, la radio la tua e a me non me la fotti nulla. Chiuso il discorso. Riprendo, Roberto. Claudio, ma non è invece che Mario ha invertito le altre luci anche un antennino che sta utilizzando quel che avuto la potenza più alta con l'antennina sulla piccolina e l'altro sta utilizzando la mantova, non è possibile? Ma non l'ho preceduto, perché Mario qua con 180 arriva a 9 più 30, ok, anche di più. Mentre col baracchino, con adesso arriva a 9 più 25, perciò l'antenna sono la stessa. Altrimenti avrei riservato subito il segnale più basso come ho riservato poc'anzi a Franco quando ha invertito le antenne. Io quando sto parlando non sto guardando le cabine geografiche, sto guardando sempre lo smittere, gli strumenti e tutto ciò che ho davanti, capito? Quindi è molto importante quello. Me ne accorgo subito, se io noto un'anomalia, noto un segnale diverso, ti faccio subito la domanda, che cosa sto usando? Antenna piccola o antenna grande, come dico a te, dico a Luca, dico a tutti, a chiunque stia parlando con me. Perché il mio modo di parlare è guardare sempre l'apparecchiatura che io sto trasmettendo, quindi me ne accorgo immediatamente se qualcuno ha qualche problema, perché il segnale da me conosco a memoria. Quindi mi potevo accorgere subito se Mario aveva invertito l'antenna. Antenna Mario non è invertito, è perfetto, quando modula con l'intercal c'è un segnale, quando modula con 180 ha un segnale superiore. E lì non si discute, il problema mio è capire come mai ti riceve con l'Inter e non ti riceve con scelta. Questa è la mia domanda, siccome io la risposta non l'ho già data, allora non mi interessa. Il proprietario di quella radio sa i fatti suoi, sa come funziona, può darsi che giustamente, come dice Antonio, ci siano delle funzioni che mai non conosce, che lui ha modificato il fatto, quindi a me non mi riguarda. Il problema è che io la radio del genere, l'attenuatore deve funzionare a meno 20 e il modificatore deve funzionare a più 20. Punto e basta, lì non si discute, e ribadisco, non c'è nessuno che a me mi può contraddire, perché io quella radio l'ho fatta a pezzi, la ricostruisco da zero, la metto in condizione di essere perfetta, allineata e corretta. Perché 20 anni che io uso quella radio, capito? Non 10 giorni, 20 anni. Mario, e così te la controlli e poi vediamo se è vero. Se è vero che ti ho ragione io, paghi la bella 4 giorni, non un mese, no, 4 giorni sono che passano. Guarda, io sono d'accordissimo con te, non ho problemi nel modo più assoluto. Io domani mattina vado da Mario, domani mattina con la mia radio, però con quello che sto trasmettendo adesso, va bene? Sento che sei vicino. Se c'è quello che dico io la radio, tu la c'è tanto, la mandi a terra, la prendo la tira a terra. Non c'è problema per quello, siccome non ho mai toccata, quindi non riesco a prendere, claro. Siccome se dagli altri giorni la stavo usando io, non potrei andare per bugiardo, scusami, mi sembra di essere sui piedi, no, che non ho capito. Se io avanti ieri stavo usando l'apparecchio e sentivo a Roberto sia con l'antenna sia con l'altra, non potrei andare bugiardo, scusami, che arrivava un segnale poi l'altro, io non lo so, figura di tu. Comunque, se vuoi fate vedere, basta che lo dici, andiamo da Mario assieme e ti faccio vedere che il cavo è l'unica modifica praticamente il bit, che tu non hai potuto vedere, il bello è quello, e già lo sai anche tu. Però altre cose non ho toccato, poi mi sto bugiando, ti ho trovato altre cose perché mi dà anche fastidio, scusami, claro. Perché non ho toccato niente. La stavo usando io, l'apparecchi, fino agli altri giorni, adesso quello l'apparecchio, ma ci sono creati problemi, guarda, la verità, guarda, non so più cosa pensare, guarda, per tirare l'apparecchio così, cioè sentimi dimmi così, prendo l'apparecchio e lo butto in terra, lo faccio mettere sotto la macchina, ma sono contento. che è buono. Ma posso dire che è l'apparecchio del ripetitore, scusami. Quante cose. Boh, guarda, sinceramente, guarda. Non aggiungata, no, di bisticciare, guarda, per queste cose qua. La verità. L'apparecchio funziona bene e non c'è niente. E boh. Poi ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Io non so cosa dire. Oh, scusate un attimino, Luca c'è per caso? No. Ah, non l'ha sentito qua? No. Vabbè, nel caso che lo senti o lo vedi domani, dimmi che ti ho mandato un messaggio per un lavoro, già c'è anche il numero di telefono. Ah. Thank you. giusto più politico. Ogni volta che sembra che ho avuto una cosa io, me lo faccio male, adesso basta. Mamma mia, mi sembra di essere mandrake qua. Boh, quando sto con le cose non funzionano più dopo che le prendo. Boh, ma va roba mia, poi sta roba qua. Già, sono sempre stati cazzo di scusi stanotte. I fuochi artifici. La bella, già ne parliamo domani. Domani se vuoi andare a Mario, andiamo assieme, mi telefoni, ci andiamo assieme e quindi ti faccio vedere che la parte che funziona, telefono a Roberto Quadrato, gli fa piacere che mangiare poi l'altro e vediamo se lo sentiamo. Se per caso io non lo sento più, io ce lo butto dalla finestra, ti va bene? Così almeno siamo contenti. Oh, lavora, che vi saluto, ciao, divertitela. Antonio, se sotto ci sono io a raccogliere, non ti offendi, vero? Ah, per quello già non mi offendo, nella puttana è un me, tanto una pari che ho valerato, vuol dire qual è il problema, l'hai copulato nuovo, se poi non funziona, ti dico mi ha mandato Claudio, le coppe sono i soldi, dammi la fitta a me. Vabbù, ciao, divertitevela. Ah, sto scherzando comunque, per Claudio naturalmente. Ciao Tino. Ciao Mario. Yeah. non col keyboard. Mario. Dimmi, Roberto. Mi arrivo, dimmi che segnale c'è di lì adesso con l'Inter. Con l'Inter che 9:10, sì, guarda. Allora c'è qualche problema di regolazione con l'apparato, non è possibile, quello è un apparato professionale, non è che ci sia l'RFG in chiuso, no? No, perché a Claudio lo ascoltavo a bomba, mi rompeva le orecchie, a Popponio giustamente lo ascoltavo basso perché lo ascoltavo più bassino, e niente, però tu quando hai fatto il cambio di radio, che sei passata da quella che avevi prima all'altra, mi sei sparito completamente. Claudio mi ha detto premi ATI e l'ho premuto e mi spariva completamente la voce. Se dovrebbe attenuare non dovrebbe sparire. Santiago 9 lo dovrei sentire, Santiago 5 però lo dovrei sentire, come ha detto Claudio, invece qui sparisce proprio. Come mai, Mario? Scusa la cosa. Sulla radio. fatto l'intervento del chiave e tutto, perché ci può essere qualche anomalia che magari il baracchino non lo rileva, ma quando scende un apparato professionale rileva questa differenza e quindi ce la porta dentro. Allora bisogna sapere dove è il problema, capito? Quello sì, quello che è logico la cosa. Deve essere qualcosa di strano, perché non è possibile. Cioè, io l'ho detto con questo qua, che l'ho omologato lo stesso qua di Santiago 1, invece col che voluto Santiago, lo sentivo Santiago 9 l'altro giorno, siccome l'ho dato a Mario da parecchio mese, tutto si è anche accorto, quindi cosa vuol dire io? Mica stavo usando questo quando ti stavo rispondendo l'altro giorno che l'ho detto, ha fatto le prove, bianco, con l'antenna e con l'altra, dice oggi di qua la. Ho staccato la mano e sto con la multibanda adesso. Quello che senti Claudio, tu hai detto sì, ti sei con questo tecnico. E tu facevi detto, perché dice non usi l'altra? No, non dice non usi la multibanda perché ho dei problemi che il cavo non ci arriva, però stare come sono al letto, però stare a cambiare il coso, tutto lì. Non è che avevo sperimentato queste cose qui, adesso Roberto. Ah, ma qua Roberto, molto se le consistesse, ma mi sembra strano. Io comunque Roberto qua l'ascolto, qua di 7-1, la verità, al corso, e sono al corso sulla Gran Premi, la Gran Premi non ci vedo una, quindi immaginati, cioè se tu metti la Gran a posto di questa Gran Premi, invece la Antova, le cose cambiano per il cambio, quindi senza che c'è qualcosa a casa di Mario, magari Mario non lo so, ha cambiato il capetto, non lo so, questo non si può dire, comunque domani lo vediamo, là. Se scendiamo assieme e mettiamo un lampo, lo vediamo. Così almeno di far vedere come si come vabbè come si usa, come non si usa, ci vediamo anche tu. Ma lì ce la faccio usare, non c'è problema. No, bisogna vedere questa cosa, se è fattibile, se c'è qualche problema sull'antenna, sul carro, su qualche stazione, oppure se qualche regolazione da fare sull'apparecchio, lo vediamo. Dimmi Roberto. Stavo dicendo, mezz'ora fa quando stavo utilizzando il PACE, io ho attaccato il multibanda e mi ha ricevuto Santiago 915, sia col multibanda che col midband che con il PACE, non ti ricordi? E che aveva il tenuto attaccato. Adesso come mai non mi riceve più? Ma infatti, ti stanno ricevendo con la radio. C80 quando stavamo facendo le prove, tant'è vero che Mario stesso ha detto c'è un carro di segnale anche qua perché ha invertito le antenne, quindi ti ha ricevuto. Allora, Sandro non ti riceve, sicuramente c'è qualcosa da vedere, magari qualche cosettina che è chiusa, non lo so. Bisogna vedere, vabbè, comunque non è un problema. Ci siamo fatti una cultura di radio stasera, un po' di problemi che sono sorti, io sinceramente non li avevo mai visti questi problemi, queste differenze tra i 3 watt, gli 8 watt, i cambi di antenne, queste cose così, perché sono cose che magari possono capitare un po' in generale, capito? Tutto lì. Vediamo se c'è ancora Franco, se si è andata con i cazzi fra. Franco ci è andato a nanna, ci è dormito la gabbia, va bene, Mario riprendi. KK, però non me lo seguo neanche io. Adesso addirittura forse è questa persona che non va bene, boh, però non capisco. Tu mi dirai, tu non capisci tante cose. Io adesso ce l'ho attaccato, ce l'ho attaccato tutte e due all'alimentatore. Allora, l'Intec è il Kevudo, nell'Intec sento bene, sento tutti, nel Kevudo no. Perché Mario, sicuramente involontariamente non te la farei mai colpa, perché abbiamo tutti da imparare Mario, nessuno è nato imparato, abbiamo tutti da imparare, tutti dobbiamo seguire delle direttive e soprattutto dei consigli che ci diamo uno con l'altro, perché nessuno è maestro qua. Stiamo discutendo dei problemi che purtroppo sono sorti inerenti alla radio, dove tutti possiamo risolverlo. risolvere tutti. Sapendo quello che può essere successo, se tu involontariamente puoi aver toccato qualche pulsante che io adesso non ce l'ho davanti e non mi ricordo, ma c'ho 140 qua, infatti veramente sono uguali, ma non sono uguali. Quello che ti sta dicendo appunto, come sto dicendo io, involontariamente c'è qualche cambio di qualcosa, perché se stasera tu a Roberto l'hai sentito quando stavamo facendo le prove, l'hai sentito con l'antenna piccola e con l'antenna grande, non capisco perché adesso non lo senti più, oppure non senti a me bene come mi sentivi, perché mi hai già detto che stasera ti sento più basso, eppure io non avevo toccato niente, quindi magari tu involontariamente ne sportando, ti così hai toccato qualcosa che non dovevi toccare. Quella radio purtroppo sono fatte così, basta un semplice gesto per far cambiare l'umore, no? Capito come si dice? Quindi non ti preoccupare, sicuramente hai sportato qualche tantino, in questo momento io non riesco a capire quale. Capito Mario? Sicuramente. Perciò domani si vedrà molto meglio se c'è qualche tantino, non lo sopporto, ma non è che tu te ne fai una colpa, io non capisco, no? Tu capisci quanto gli altri, o più degli altri, è che purtroppo sono aree molto, molto delicate, basta toccare qualcosa per far sì che lei o si abbracci o si sollevi da sola, tutto lì. Avanti. Buonasera Franco, scusate se mi interrompo, sto trovando un microfono, volevo sentire, anzi volevo un'opinione. Da chi la vuole l'opinione? Mi passa due o tre persone. Io ti sento bene, se ti faccio fare poi. Abbasso ancora appena. sapere come ti ascolta di radio, perché il segnale non te la può dare, di radio Roberto, prova Roberto. No, va bene, tutto è bene, forse un po', soprattutto ti sento un po', la S un po' tirata, per il resto va tutto bene, ottima. E quindi la differenza c'è altro, come vedi, questa è uno, va bene così, non di più quanto dito lo ottenere da 8 con la stessa radio. Ma cos'è il ritorno? Come sei? Non ho capito il titolo 7, non ho capito. Il 7 è il 7. Ma cosa però? Non ho capito, se tu vuoi sapere quello che vuoi, tu? Non c'è una radio che ha provato a meglio, ecco, se lo sento della mia radio, mi pare che l'hai anche provato tu, no? Uguale a quello dell'amico tuo, no? Quando avete fatto lo scambio. Cioè, come mai non c'è nessuno? Questa è una radio perfetta. No, aspetta, io c'avevo il microfono con il caso che mi ha guardato lui, o qua, eccetera, un certo. Lo sai che anche più di me, se avessi messo il microfono diverso, sarebbe stata la cosa, che c'è? Ma non ha niente a che fare con la radio, non vuole stare provando Franco, non ha niente a che fare, guarda. Questa è una signora radio, no, non è mai stata toccata da nessuno, non è mai girata in mano a nessuno perché l'ho comprata io nuova, capito? Quindi, a tutti i dini che già lo so io di cosa sto parlando. Questa è una signora radio, questa è una signora radio, fra. Per me va più che bene, spinge la volontà, c'è amplificazione da rendere, chiarezza, c'è tutto. Hai, come ti ha detto Roberto, i toni molto molto acuti, ma per te va bene così la radio, e non c'è niente da aggiungere. Perfetta. Vai Mario, come lo studi a Franco? Io questo passaggio, l'ultimo passaggio l'ho ascoltato benissimo. Comunque saluto un intero ben entrato. Grazie al Mario, saluto anche a te. Sì, allora lascio questa, adesso faccio le commissioni e poi niente, chiudo tutto. E niente, lo vedo amico, ho dovuto riportare al stato originale. Anzi, infatti l'ho seguito, perché tu mi hai detto che in questa radio ci andava bene un tipo di... di microfono, invece io ne ho provato un altro. Io scrivo un metro più Claudio, metti sì, tanta che va bene, va benissimo, stata strana, quando sono entrato c'era un cesto, allora mi ha affidato la testa e ho messo una traversa, quando l'ho sentito, come ti sento bene, non mi sembra un chevolo questo, mi sembra l'altra parecchio, perché ognuno c'ha il tipo sua, di cosa è quello. Ma non ho un po' tempo, così non è che non potevo soffrire. Ma scusa, se c'è la connessione già del 60, ci sono tanti microfoni, potevi provare l'80, potevi provare l'85, no, va bene, sono rispetto a compiglia di luce, la radio la tua fai come ti piace, però poi mi sono talmente abituato a sentirla, no? La tua modulazione con la saletta, che alla fine poi mi piaceva, capito? Infatti va sempre bene, perché anche Mario c'è molto bene. Però non capivo come mai non si adeguava quei microfoni lì. Tratta di positivo, va bene. Riprendi, fra, quanti a Mario tocca. Mario, riprendi. Io, quando parlo anche di queste cose, mi piace anche ascoltare, perché sono molto interessante e fanno istruzione. Non è che si va solo a scuola, ma per avere un po' di istruzione, anche alla radio, solo che è istruzione specifica sulle radio, KK, va bene, dai, non è... Sì, poi, non lo so cosa gli ha preso stasera, non ho capito, mi sono spostato al 15, poi sono rivenuto qui, merita la radio. Con Mario stasera, io ben mi ricordo, hai fatto un passaggio in banda laterale con Gianni. No, ma non ero con questo, ero con l'altro. Questo qui un po' gli mi ha detto di non toccare niente, io non ho toccato niente. Ho toccato solamente adesso per passare al 15, che era una cosa semplicissima, e boom, questo per non toccare nulla. Niente. E infatti sono meravigliato, o è lo stesso uno che, per il tempo non va bene, e per questo qui va bene, ma mi pare strano. Aspetta, ti riprendo io che vado a collegarmi, che domani dobbiamo passare presto. Buon proseguo e buona chiacchierata. E buona giornata per domani a tutte e tre, gli eventuali ascoltatori. Ciao a tutti, buonanotte. Devo togliere le schede della M finiscono di mettere dentro perché praticamente gracchiano, ecco, è un problemino che bisogna risolvere. Io non posso prendere questa radio dalla Antonella di Antonelli, sono una radio perfetta, oppure Antonella la prova per mezz'ora, dopo mezz'ora si inchioda la radio. Io che figura di cacchio ci faccio? Cioè, ho preso in giro un amico e gli ho dato un prodotto, una cosa che non va bene. Invece la serietà di chi dà le cose e dire guarda Antonè, io ti sto dando questo, però siccome so che tu sei capace a fartelo, te lo sto dando con questo problema, ti va bene così? Cioè devi essere anche corretto nelle cose, sennò che tu mi mandi una radio a me camuffata, dopo due o tre giorni a me mi si guarda la radio e ti vado a cercare. Quello mi risponde, ah sì, ma la radio te l'ho mandata a posto. Che sono passati due giorni, vuol dire che l'hai rotta tu, queste sono cose che mi hanno fatto io, cioè non c'è serietà. Kappa, ciao Fra, buonanotte, buon tutto, ce la riascoltiamo alle prossime. Ehi, c'hai ragione Claudio, infatti io quello che sto temendo è che anche a me che non mi arrivi il 140 tutto svelenato. Mario, io ho avuto il collettivo affetto, perché anch'io ho ricevuto la faccia, tu lo sai, ma è roba mia, le rispondo io e non me ne frega niente, mi hanno fottuto, peggio per me, ma come c'è un tramite di mezzo, come io ho fatto con Roberto che mi è dispiaciuto tantissimo, perché mi è dispiaciuto veramente, come ci sono io di mezzo, quindi a me dispiacciono queste cose, perché mi sono interessato io e Luca, e Luca mi ha fatto la tramite perché lui è più pratico, ha seguito tutto, no? È arrivato a casa sua, io sono andato a ritirare la roba a casa, mi sono dovuto rivestire, andare a tirare la radio, la porto qui, l'accendo, tutti gli ultimi soldati dello smitter, della calibrazione, del roba, tutti i soldati, un perbugio, ma brutto cretino, ma questo è un deficiente. Ho preso tutta una prima bruciata, allora stamattina ho dovuto comprare lampadine, mettere a posto tutte le lampadine, gli ho dato tutta una sistemazione a pomigli perché tutti gracchiavano, erano pieni di polvere, di ossido, insomma, ho preso la radio efficiente, la provo tutto perfetto. Insomma, perché c'è Roberto, gliel'ho provato davanti a lui, tutto perfetto, contentissimo, gli ho fatto le connessioni di microfono, non c'è capo di alimentazione, quindi mi ho preparato il cavettino. Cioè, tutte le cose che ho fatto io, non perché io debba rifacere niente a nessuno, sono cose che dovrò fare chi me l'ha venduta, giusto? Perché io te l'ho pagata, tu me la devi dare efficiente. Oppure se sei corretto mi dici, guarda, non è un cavetto di alimentazione 12 volt, ha tre lampadine bruciate, ci sono i pomelli che vogliono controllarti, tu me lo scrivi, io ti dico, no, quanto vuoi 100 euro? No, te ne vado 80, va bene, perché 20 euro mi servono per fare questi lavori. Invece no, mi hai chiesto 100, 100 te ne ho dato, mandami la radio che funzioni, che sia in ordine, e questo non è stato, va bene, un'altra tratta. La pagina sono state fatte, l'avete stata messa a posto, tutto ok, l'ho fatta, bimbo, un bra, tutto a posto. Hai soltanto la ricinchiolata per l'inter, ma io dico, è mai possibile che da mezzogiorno alle 7 di sera si possa inchiolare uno strumento? Non vi grido. Solo che tu c'hai un brutto carattere, ti incavoli subito e dovresti essere un tantino più calmo perché, cioè, non è la persona adatta per sfogarti, capito? Cioè, noi ne parliamo tra di noi così, però non... Sì, scarichi un poco, però non è la stessa cosa, capito? Davvero, e purtroppo sono le fregature che possono capitare quando uno compra tramite computer, perché sì, è una gran comodità, uno guarda, vede, fa, però le fregature ci sono sempre, come che io vengo a casa tua, fotografo la tua stazione per dire, e poi la metto sui bimbi. Però al momento che devo spedire, spedisco due mattoni al posto di una radio, perché in effetti si tratta di questo, che anziché essere una radio efficiente a tutti gli effetti, come dicono, ti trovi sempre con un poco di modestia, tutto lì. e giustamente come hai detto tu, sino che per me sui due denti è il caso, ma il caso l'avevo presa per fare contento un amico e oltre che farlo contento gli sto facendo anche un favore e invece poi ti trovi questi casini e giustamente da inirvi perché ti senti pilato per il culo praticamente due volte. Tutto qui. Sì, adesso faccio dire tanto meglio, non ho mai perfettamente ragione io. Mi scuso se a volte mi incazzo per queste cose, però purtroppo io faccio radio da tanti anni e sono molto molto amante della radio, sia delle mie che quelle degli altri. A volte mi adiro perché sento una persona magari che non esce come devi uscire con la mia stessa radio, ma porca miseria, se ce l'ho io e sto uscendo bene, tu perché non devi uscire bene? Devi uscire male quanto a me, a prescindere dalla timbrica di modulazione, dagli accorgimenti che io posso avere, però anche tu devi uscire bene se abbiamo la stessa radio, e quindi mi addio. O quando vedo una radio bella, tutta, cioè una radio professionale tutta anagrafiata, mi addio lo stesso, perché non è modo di tenere le cose, forse perché sono troppo pignolo anche delle cose degli altri, mi piace che anche gli altri tengano le cose bene e le usino bene come le uso io, e quindi mi adiro, ma mi adiro ancora di più, come ti ho detto prima, quando uno mi prende in giro, cioè perché se io ti compro una cosa, tu devi essere onesto e dirmi ciò che ha la radio, in modo che io, se riesco a metterlo a posto, lo metto a posto, altrimenti ci sono le persone capaci per farlo. I tecnici che noi ne abbiamo tanti radio, siamo amici, ci conosciamo tutti, tipo Antonio, tipo Franco, tipo Antonello, cioè che si fanno queste cosettine, tipo io che faccio queste trontate che posso fare, quando riesco a fare io le faccio fare a chi le deve fare, ma se tu mi prendi in giro, mi mandi una radio che non funziona e me la camuffeggi, non sono cose da fare, ecco perché mi adiro, e mi adiro ancora di più quando sto facendo una cosa per Mario, una cosa per Antonello, che dico, ma scusa, ci sono io tramite, l'ho ordinata io, mi sono occupato io, mi hanno preso in giro, e quindi sembra che io automaticamente stia prendendo in giro a chi devo dare la roba, capito? E sono fatto così, forse ripeto perché mi piace troppo la radio, ma la prendo troppo a cuore, ma non riesco intanto a scaricare i nervi e le cose, infatti... Sono stato un'oretta fuori dalla radio, mi sono un po' rilassato e poi sono rientrato perché mi dà fastidio, capito? Mi dà molto fastidio quando le persone si comportano in questa maniera e non hanno un briciolo di niente, perché la radio è una radio, per me le radio sono una cosa intima, una cosa mia che io uso e che voglio che siano a posto di tutto. Se posso dare un consiglio lo do, se poi ognuno della roba sua, come a Cantonello, fa quello che vuole, quindi non è che io mi posso mettere in mezzo ai fatti degli altri, però è brutto che una persona si comporti così, al momento in cui si prende i soldi sono buoni, non ti spediscono la roba fino a quando non hanno questo cazzo di portapei, poi quando si hanno incassati i soldi, dice hai incassato, adesso lo mando alla radio, e si arrangi, capite, fatemi così, no, non va bene. Perché secondo il mio punto di vista lì dovrebbe anche mettere in condizione la gente di ricevere il contrassegno. Tu mi mandi la radio, io la controllo, se la radio a posto dirà bravo, dirà ritiro, se la radio non è a posto, non ti ritiro, te la rimando indietro, non che tu c'hai i miei quattrini già da 3-4 giorni e la radio a me ancora non mi è arrivata per dire, capito? Tutto lì il problema, perché loro ci devono aggiustare con i quattrini di questo giro di affari che c'è, capito? Perché internet sta diventando un giro d'affari per tutti, anche oggi c'era un programma alla televisione, sempre su internet, e prima o poi vedremo che anche su eBay ci sarà qualcosa che non sta funzionando, perché mi va un giro troppo ronfio, un po' troppo ronfio. Avanti Antonio. Antonio è sparito. Sì, Claudio, c'hai ragione, ma io penso che questo eBay, cioè, da una parte mi sembra una cosa comoda perché uno vede e fa, però ci può essere la doppia fregatura, perché non sai mai se è comprata, se è rubata, se è trafficata, se è manomessa, non sai mai niente, perché di queste cose giustamente non te ne dicono. Tutto lì è di Claudio, e siccome io adesso, anche quando piglierò quella lì, mi faccio dare il ricevuto, mi faccio dare tutto quanto, perché sai come ti capita un controllo, e questa radio da dove viene? Punto di domanda. E se lo riesci a dimostrare, tutto ti va bene. Se non lo riesci a dimostrare, ti possono dire pure che l'hai rubata. Ma infatti. Il problema è che però quelle sono persone come noi e o Mario, capito? Perché sta venendo Luca, sto venendo io, stanno venendo tante persone. Tu c'hai il sito, metti lì, vendi, ti contattano e vai avanti. Però lì, secondo il mio punto di vista, dico sempre secondo il mio punto di vista, ci sono persone non serie che ci dicono delle cose perché hanno 200% difetti, capito? Perché se io ho una radio, anche io ho radio di 20 anni fa, me ne potrei rifare, ne ho doppie, ne ho triple, ne ho di collezione, non di collezione, a me hanno quasi fatto in tutta questa roba. Ah, c'è questo mercatino, adesso la metto, mi faccio un po' di quattrini e mi aggiorno alla stazione. Io non le do, perché non me ne frega niente di darle, capito? Però se io avrò una radio, avrò un tanto di garanzia. Lo scrivo pure sotto, la radio è garantita, ne rispondo io se c'è qualche problema, perché sono una persona seria e so che nessuno a me mi può rompere l'anima, perché la radio è in garanzia, è nuova, è operata da me, è comprata da me, capito? È messa lì per vendere, per comprare altra roba, per fare un po' un aggiornamento delle radio, ma non la vo perché è difettosa, capito? La vo perché voglio aggiornare la stazione. Invece lì, secondo me, non c'è gente che vuole aggiornare niente. C'è gente che si mette due stronzate, me ne disfo, perché come ti dice il Rogaccio, me ne disfo perché nel paese non c'è più nessuno. Ma l'ha detto, ma non esiste, capito? Cioè, in un paese non c'è nessuno, tu sei 20 anni CB e ti dici di una cosa tua, perché cosa? Perché io me la tengo tanto. 100 euro non mi fanno ricco né povero. Però c'è un ricordo di una radio che ho trasmesso per tanti anni, se non c'è nessuno nel paese ci sarà qualcuno nell'altro paese vicino, perché questo ve la parlava solo col paese suo, ma io avevo tutta la Sardegna, quindi se non c'è nessuno a Sassari, a me lo esamina tutti, di locale qualcuno lo trovo che sta passando per la strada col baracchino, o qualcuno può coprire se qualcuno è vero c'è per parlare, chi se ne fotte, che discorsi sono? Invece il discorso valido è che questa gente si disfa della propria roba perché c'ha qualche difetto e quindi non sa come sbolognarla, capito? Allora la mette su eBay che stai comprando occhi chiusi, capito? Tutto lì il problema. Avanti Antonio. Vediamo, secondo io vado a pigliare la mia 25, che state uscendo adesso a lavorare, se c'è un frattempo là, che lo fa i più. Ciao Antonio, ci sentiamo per un po'. Gappa. Sì, così è, proprio così è mi Claudio. Cioè noi stiamo comprando a uti chiusi praticamente, perché ci accontentiamo di vedere una semplice foto sul computer. Boh. Ma incrociamo le dita qua. Cioè, io me la sto pigliando, però. C'è un cuore, tre soldi, Mario, tutti così siamo, cioè non... Io ti ripeto, io ci sono un mese, 2 mesi che sto navigando su internet, su questo eBay. Di radio, di attrezzatura ne ho già preso un po', non molta. Però ti posso dire che questa è già la terza volta, anche la quarta volta che me ne mandano. Tre volte per me è una volta per un amico come Roberto, è la quarta volta che mi mandano cose che non sono perfettamente funzionanti, quindi non posso dire che questa è la prima volta, è già la quarta, quindi mi sono già tuffato, perché addirittura su un baracchino tutto per terra, perfetto, nuovissimo, guarda, perché l'alimentazione, e non la attendi, contro il fusibile tutto a posto, ce l'ha Franco, anche una cosa magica che va a radio, ma lo coverà bene, controllo, positivo, negativo, tutto a posto, fatto Franco, e poi il complesso, poi se c'è qualche fusibile interno, torniamo con il complesso, per con Franco, e poi ci prende, no, ce n'era, l'alimentazione, tutto a posto, tocca a mettere la mano sopra la, il circuito di tocca per accendere la radio, quando lo programmi si accendeva, pressava col dito e si spegneva, tornava a toccare e si accendeva, ma toccava, però c'è un problema, qualcosa, allora te lo posso vedere, poi l'altro compagno di sotto andiamo sul transito di alimentazione e lui già aveva due piedini staccati, due piedini staccati, hanno provato a saldarlo con un soldatore che per carità di Dio ci hanno messo tutto lo bagno sopra, hanno disintegrato tutto, non ci sono riusciti a sistemarlo, qualche zingaro, l'ha chiuso i cessi come se sui miei, ci hanno trovato il pollo che lo copre, ha trovato il pollo, capite? Io gli ho telefonato e questo deficiente sai cosa mi ha detto? Ti posso mandare i soldi del transito, della lampadina, ho brutto il decile, ma io sono voluto andare a piedi a trovare a te su lei per mandarmi 5 euro di roba, cretino che non si altro mai educato, io ho comprato una radio da te con i quattrini, hai capito, non l'ho comprata per prendere in giro nessuno, e tu a me mi dovevi dire una radio buona, una radio che funzionava, ma quello è un disguido, che è quello di sguido, ma quello di sguido, si è provato a saldarlo, non ci si è riuscito e ha rotto i piedini, ed è efficiente la diritta, non telefoni, tutti quelli che si Sardegna, non siamo peggio, la tua fortuna non sai qual è, se non ti conosco non so chi sei, perché non c'è altro che ha toccarsi nel culo, perché sei un grandissimo farabutto e comunque ti metto talmente negativo sul computer, ha disintegrato, non devo vendere più niente, hai compreso? Cioè ti vado di invece contento, io sono andato a cercare questo transistor, Mario, non si trovava nessuna parte e tramite Antonio Riserva sono riuscito a procurarlo e ne aveva uno lui, laboratorio e malato, altrimenti ci avrei dovuto buttare la radio. Ma così è, purtroppo è così, qua. Davvero, purtroppo è così. Oh, comunque domani mattina sono sotto casa tua di nuovo, amico. È proprio vero, allora. Io devo andare all'Inps a pedire il certificato, perché fino al 25 mi sono fatto il riposo per la schiena. E niente, alle poche devo andare subito a fare la raccomandata in ufficio, perché altrimenti non mi mettono in malattia, mi mettono in ferie e mi brucio tutte le ferie. E quindi devo spedire il certificato a Cagliari per passare all'Inps e imbucarlo là, poi non mi frega niente, poi già tanto domani è sabato. Non c'è problema. Niente. Anche ci vediamo, facciamo le chiacchiere, ci prendiamo un caffè. Capito? Tutto lì è caro Mario. Queste sono le cose che mi hanno fastidio. La mancanza di serietà nei confronti degli altri. Perché se io sono serio nei tuoi confronti, tu mi hai chiesto 100 ti ho mandato. Mi hai detto di fatto il porto D, ti ho fatto il porto D. Tra l'altro mi ha detto che vuole mandare in televisione e devo arrivare del 5D. Quindi già lì non sei serio, capito? Tutte queste cose. Queste sono le cose che mi hanno più fastidio di tutti. E poi quando ti rispondono in questa maniera, capito? Per un transito di 2 euro, non mi costa un transito di 2 euro, è che quel transito non si trovava, e se io non avevo un amico che conosce il transito e che sa di quello che io volevo, e io ci buttavo la radio, facevo la radio, non accendeva, che si era magnata, tutto lì il problema, capito? E vabbè, pazienza, e come quella o l'altra, la stessa cosa, lampadine bruciate, un potenziometro che mancava, non riesce a comprendere, ma si era fatto la fila la radio a posto, perché a me mi è male dentro la manopola, ma non è io ne ho di queste cose, quindi me l'ho messa, e va bene, ma è roba mia, non devo rispondere a nessuno, quando invece devo rispondere agli altri, il problema è diverso, tutto lì, capito? E vabbè, allora mi sa di Roberto, mateci grossa, no, io da questo momento mi ritiro sul pochi. Ma io ti saluto, che così domani mattina mi alzo presto, altrimenti già l'una ma non quattro, non combino un accidente. Se rientro Antonello, salutalo, ci sentiamo domani, saluto tutti quelli che ascoltano, quello di primo, che ho parlato anche troppo stasera. Vai, vai. Cappa, comunque, se passi, ci scambiamo 5 minuti di chiacchiere, io sono la terza torre salendo da casa tua a destra, cioè sono 4, io sono la terza, e niente, là, al limite se troviamo 5 minuti ci prendiamo anche il caffè, non c'è problema. Ok, qua, buon QRT, buon tutto, e soprattutto curati sempre quella schiena, perché tu sei sempre a dolori, però i giorni così non ti fanno nulla, ti devono dare una cura o perlomeno un qualcosa di efficace che ti calmi quel dolore, perché se è vero che ne hai due non bastava una, no, due, mamma mia, per carità. Vabbè, dai, buon QRT e buona giornata per domani, ci sentiamo alle prossime, saluto del QRA, ciao ciao. Ciao Maria, d'accordo, ma no, te lo devo iniziare domani la cura, fatta la anche farmacia, ritirare tutta la roba che mi hanno dato, iniziare questa cura, adesso vediamo, 10 giorni, se va bene, altrimenti me ne vado a trovare le lì, non me ne ho tutti nulla, ma esco a casa, ce la mia va a fare. D'accordo, ciao, buonanotte, sì, mi avvicino, ho capito, sì, appena terminato mi avvicino, allora, speriamo non ci siano problemi, altrimenti già ci sentiamo in radio, allora riprendo e ci mettiamo d'accordo. Ciao, buonanotte, saluto tutti cordialmente, 73 cordiali, chiudo, sino domani mi gattano buco, ciao Mario.